Hai sognato di lasciare la città, hai spezzato un ansiolitico a metà, hai provato a mettermi in tasca le tue bugie. Ho sognato di restare qua in città per nascondermi con te, ma la realtà è che ti ho lasciato la mia giacca e una cicatrice. Soffochiamo al collo due catene, ma non voglio più vedere quella faccia che fai. Guarda che faccia che hai. Nero mascara, vedo colore, occhi cascata, segnano il tuo viso chiaro. Nero mascara, vedo crollare la nostra casa e ora non hai più un riparo. Ti ho visto nel mio mare, stavi per affogare, avevi detto mai più, mai più, mai più. Ti avevo detto fai tu, fai tu, fai tu. Io faccio come faccio, viene come viene. Notti che mi incazzo, camomilla e miele. Ti ho invitato a pranzo, non ne vuoi sapere. Ci stiamo sul cazzo e ci vogliamo bene. Soffochiamo al collo due catene, ma non voglio più vedere quella faccia che fai. Guarda che faccia che hai. Nero mascara, vedo colore, occhi cascata, segnano il tuo viso chiaro. Segnano il tuo viso chiaro, ero mascara.